Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, Ristorato e Convento in compagnia di un amico che viene da lontano. Ciao amico che viene da lontano. Ciao Convento. Allora. Piacere. Per quei pochi che non ti conoscono ancora, giustamente, è sempre la frase che dico in area YouTube, però la diciamo anche in radio, da dove vieni? Forlì. Da Forlì? Ah sì, quindi Forlì? Forlì? Forlì. Forlì. E porti qualcosa in dono da Forlì? Ma ormai devo fare una presentazione per 200-300 bomboloni. Ah, esatto, esatto. Perché sveliamo questo mistero. Allora, tu sei uno dei clienti più affezionati del convento. Vengo spesso, sì. Qual è il motivo che ti spinge ad arrivare fino qui? Perché è un locale fantastico, bella musica, bella gente, ci si diverte, quindi l'ospitalità è una cosa che per noi della Romagna è importante, qui la troviamo. E qui la trovi, esatto. Manca solo un altro piccolo particolare che ti spinge ad arrivare fino a qui. Diciamo, attenzione, che è arrivato il particolare, ecco, casualmente abbiamo un'immagine. Diciamo, abbiamo un'immagine del particolare, eccola, è arrivata, eccola, vediamo anche nelle webcam. Sì. È arrivata la portatrice sana del particolare che ti esatto. spinge ad arrivare fino diciamo qui. Diciamo che c'è il motorino che fa girare il mondo. Ecco, esatto. Il sorriso. Il sorriso. Il sorriso, sì. Mettiamola così, anche quello. Esatto, giustamente il sorriso di Nadia fa felice il mondo, ecco. Cos'altro di Nadia può far felice il mondo? Gli occhi, ecco, era palese. Io direi lo spirito dell'umorismo. Sì, esatto. La simpatia, e la biondità. La simpatia sicuramente. La simpatia di Nadia è indiscussa, proprio non c'è discussione. Diciamo che uno arriva e guarda la simpatia soprattutto. Io direi più che simpatica è gioviale. Secondo me Nadia è da sempre una ragazza gioviale. Ti piace come aggettivo per descriverla? Sì, secondo me ti si addice molto bene, sì. Bene, è fanciullesca. Sì. Sono un'eterna fanciullesca. Eh sì, lei fanciulla moltissimo. Molto fanciulla. Ecco, ma gioviale perché si discosta dalla massa. E infatti Nadia è una ragazza che si discosta dalla massa. Questo è un gran super complimento. Mi discosto dalla massa. Sì, ma c'è anche blu blu in mezzo. No, sì, discosto dalla blu. È fondamentale fare il complimento con blu. Ci sta. Vuoi fare qualche altro complimento a Nadia? Forlì? Beh, guarda, Nadia, che dire. Mi verrebbe da dire tante cose, ma è meglio tenersele per sé, sai? Tanto casualmente è finita in una buca dello studio. Ecco. No, mi sono tolta i tacchi. Ah, dicevo, cos'è successo? Cos'è successo in quel momento, vedi? Non si possono dire certe cose. Provate voi andare in giro con i tacchi tutta notte. Guarda. Comunque mi potrebbe piacere tantino allora, che fa notare. Se vado sulla via Emilia. Nessuno si era accorto di niente, ma se vado sulla via Emilia con i tacchi. Esatto, può darsi qualcosina per caso anche. Attento. Allora, compito. Attenzione. È uscita dalla buca. Dopo essere uscita. No, però no, scusate. Torna giù, ecco, attenzione. Ecco. È su un ponte elevatoio praticamente. La piattaforma mobile, dai. Passiamo in diretta, davvero ci vedono. Allora, parlare di piattaforma con Nadia, no. Ok. È una ragazza piena di sollevamenti. Esatto. Sollevo di tutto, in primis l'umore. L'umore. In secondis. In secondis. Parliamo, In secondis sollevo anche i pesi in palestra. Esatto, giustamente. E terzis. Ma non ultimis. E non ultimis, perché lei è maestra latina proprio, ecco. Cos'hai? Quindi, sollevo il livello culturale delle nostre conversazioni. Dal latino con si capisce. Con le mie citazioni in latino. Con le tue citazioni in latino. Del tipo? È del tipo? È del tipo in primis, in secondis, in fundis. In fundis. Questa ragazza in fundis in noi è piacevole emozionis. Tu in fundis molto. Vogliamo fare la gara degli aforismi in latino? Cioè? Non so. Ubi maior minor cessat, poi tu devi dire uno. Ma adesso allora Folli. Lei è venuta qui, ha fatto latino e vuole fare ecco, noi così, che siamo dei degli umili ragionieri che non perito elettronico. Vedi, ecco, parlale un po' di un circuito. Esatto. No, facciamo un gioco, inventiamo un gioco nuovo. Se tu potessi dire una cosa al mondo, sia una frase, un mini discorso di qualsiasi tipo, cosa sarebbe? Seguire gli esempi per essere esempi. Può essere una barzelletta, può essere un consiglio. Consiglio, ti vedo caldo sul consiglio. Lo vedo caldo, sì. Lo vedo. No, il consiglio è meglio che me lo tengo per me. Dammi retta, perché il mondo è già troppo vario così. Quindi un aforisma. Si autoconsiglia lui, eh. Ok, allora cosa. un pensiero, no, condividi con noi un pensiero. Un pensiero? Sì. Un pensiero, guarda, un pensiero, una riflessione profonda. Vai. Mi piace questo, meno questo momento marzulliano della Nadia. Proprio fatti una domanda, datti una risposta anche. Guarda, al giorno d'oggi mancano tantissimo gli esempi, secondo me. Parlando proprio seriamente. E quindi una frase che a me piace tantissimo è: essere esempi per seguire gli esempi. E adesso se, tu me la devi commentare. Sei creato il blocco. Io la vedo un po' come sii tu il primo, sii tu ciò che vorresti vedere negli altri. È questo che vuoi dire? Non proprio. Non proprio. Sandrino, dalla tua interpretazione. Io ho segnale assente in questo momento. era troppo difficile a vista l'ora. Allora torniamo a parlare di patate, dai. Pensi che noi stessimo parlando di patate? Per me sì, prima che arrivassi io penso proprio di sì. Noi chiedevamo a 4D cosa lo spinge a fare 200 e passa chilometri ogni domenica per venire a fare l'aperitivo allora al convento. Avevo dato tutta una serie di spiegazioni sul locale, sulla gente, sul che... Diceva, manca una cosa, in quel momento sei entrata tu. Casualmente, tra l'altro. Hai portato tu la patata, l'argomento patata l'hai portato tu. L'hai portato tu, Nadia. Noi... Se volevate lo lasciamo a casa. No, portala sempre con te. Ecco, noi giustamente. Assolutamente, guarda, cediamo alla violenza noi. Guarda. Non c'è mica problemi. No, comunque è ammirevole questo spirito di quest'uomo che nonostante piogge, neve, tempeste, sole anche, viene qua al convento lui. È vero. È vero, sei il cliente più longevo e distante che abbiamo. Più longevi vistante. Più longevo. Longevistante. Tra un mesetto sono più longevo ancora. Dai, perché? Dove vai? Il 4 di luglio compie gli anni. Nato, come Tom Cruise? No. Non so. No, era come nato il 4 luglio, c'era mica un film. Il 4 luglio c'è la festa della liberazione. Esatto. Ha preso anche la Bastiglia lui? No. Allora siamo al 18 luglio. No, non era il 4? No. No, per gli Stati Uniti. Ah, ho sbagliato. Indipendenza dalla. Hai visto? Ci vuole Nadia per darci la cool. Per darci la cultura che noi abbiamo vissuto. Date un po' di asma, ecco, in questo momento. Che di cui abbiamo bisogno. Invece, scusa Sandrina, se la pongo a te questa domanda, tu cosa vorresti condividere col mondo? Allora, se io potessi, vorrei condividere tutto l'affetto che provo verso il prossimo. Ho creato silenzio nuovamente. Tutto il prossimo o solo una parte? Perché da come l'hai detto, secondo me era più indirizzato a una parte specifica. Te lo dico la prossima volta. È come il discorso di cosa mi spinge a me, ho capito. Qua siamo tutti spinti. Nadia, tu che sei meno spinta di noi? Io ho una forza motrice interiore. C'è la forza motrice interiore, lo sapevamo. Quindi non sono soggetta a spinte esterne. Non è detto. Non oddio, è detto. Oddio, dipende, in effetti ecco. a volte capita. Anzi, speriamo capiti ancora. Quando ci sono questi incontri di forze. Ci sono alcune forze che spingono. Che riesco, ecco, esatto. Mi piace questa intervista. Ma come mai? Io cerco sempre di portarci dei temi più alti. Nadia, prima a fare delle citazioni, a farvi vedere delle cose interessanti. E poi si finisce sempre a parlare delle perché stesse cose. Perché sei tendenziosa. Prima che arrivasse Nadia era un'intervista seria. Ah sì, certo. Credimi, andrai a sentire la registrazione. Poi sei subentrata te e sei partiti negli ortaggi più vari. Siamo partiti, siamo decaduti. Anche tu sei decaduta quando sei entrata, eh? Mamma mia Sandrino, non ne perde una, hai visto? Lui non dorme la notte, inventa battute. È bello, perché io sapevo già che c'era questa scena della Nadia che si inciampava in radio. La sogni la notte, la Nadia? La Nadia? Che si inciampa. La sogno di notte? Che si inciampa? Sì, però non che si inciampa, spero. La Nadia la sogno ad occhi aperti. Di giorno. No, è una battuta, scherzavo. No, non ha fatto scena? No, carino, posso sognare a occhi aperti e... Sì, dai, è un po' come quando mettono Alba Chiara. Qual è l'effetto della battuta? Ricordiamo che casualmente il nostro Forlì ha cantato. Che canzone hai cantato prima? Alba Chiara. No, ma non è il fatto che l'abbia cantato Forlì. Il fatto è che l'hanno cantato in 10.000 ogni sera. Ogni sera resa io un perché po'... la scelta la ragazza, di dire vero. Ecco, io non la canto dubbi. Mai quindi. No, infatti. Però quando qualcuno entra nella YouTube, cosa chiede? Gli anni, Alba Chiara e 50 special. Esatto, sono le più gettonate. Esatto. Deve fare qualcosa di un po' diverso. Bello variare. A volte. A volte, ma. No, sempre. Poi ricordiamo il mito anche di Forlì, dei bomboloni, che anche questo comunque sta è diventando... degno di essere preso nota. Sì. È degno di essere preso nota. Sì, fa niente, non sottolineare i tuoi errori. Ricordiamo che Nadia è di Merano e quindi. Esatto. Oggi ho detto a qualcuno che mi ha detto, insomma, bella accoglienza, così, ho detto una cosa tipica di noi ragazze del sud. Del sud, del sud Tirol. Mi parli dove sei? Merano. Ah, ok, ma non ha capito. È una tipica località della Sicilia medio orientale. Bravissimo. Nadia è un pozzo di battute, eh? Sì, una roba. Anche adesso è finita nel pozzo, tra l'altro. No, adesso non sono nel pozzo, così. Già, ecco, adesso. Va su e giù sempre. Adesso lei fa sempre su e giù. Ok, ragazzi, è stato bellissimo, il nostro tempo ormai volge al termine, non abbiamo parlato di Forlì per niente perché Nadia, perché abbiamo trovato argomenti ben più interessanti, molto molto interessanti, certo. Infatti l'indice di ascolto non è salito, l'indice di ascolto è salito, il medio non capisco perché, però va bene lo stesso. Ognuno sceglie proprio, ognuno sceglie cosa far salire, esatto, proprio dito di ascolto. Noi non abbiamo l'indice, a me salta fuori il medio, non capisco bene perché, però va bene. Salutiamo il nostro Forlì. Un saluto a tutti voi del convento, è sempre un piacere stare in vostra compagnia, veramente. Grazie mille. Noi aspettiamo i bomboloni. E se ecco, non i bomboloni, cercavo di... ci accontentiamo di anche della tua compagnia, che comunque è sempre grazie. Bella. Esatto, è sempre bella e piacevole. E ti vogliamo bene, Forlì. Ti vogliamo tanto bene, giusto? Dillo. Ti vogliamo tanto bene, ecco, Forlì. Apprezzare non la era Vicenza, che vogliamo bene. La spontaneità di Nadia, ecco, sì. Apprezzabilissima. Ok, va bene. Ci avevi incartato il gobbo, ma a parte quello. Va bene. Ok. Ma poi dopo a chi devo voler bene? Me lo ripeti dopo. Dopo te lo segno. Così. Ok. Così è la scaletta. Ciao a tutti da Sandrino. Ma che voce erotica alla fine. Ciao a tutti da Sandrino. Dolci sogni da Nadia. Dolce notte da Forlì. Ui.